A uno dei nostri ascoltatori, purtroppo non si è firmato, ma ha fatto riferimento a quanto detto precedentemente: dove c'è musica non ci può essere nulla di cattivo. La musica è emozione, è un altro modo per parlare con Dio. E molti artisti lo hanno fatto, molti compositori. Assolutamente, sempre appunto, come diceva Papa Francesco, rimanendo nella semplicità ma rifuggendo la banalità. E questo equilibrio è quello che veramente è difficile. Ma come dice il nostro ascoltatore, moltissimi artisti si sono ispirati soprattutto alla Bibbia, dove diciamo hanno preso proprio la linfa per cercare di scrivere una musica che serve sì ad innalzarsi, ma anche a ragionare sul presente. Sì, come si vede, si parla di musica, ma si parla di Bibbia, si parla di musica, ma si parla di società. L'idea forte di Papa Francesco è proprio questa: l'arte non svincolata, come se fosse un qualcosa che vive di vita propria. L'arte ha un senso soltanto se vive delle relazioni che ci sono con l'arte, relazioni con la società, relazioni tra gli individui, relazioni anche con se stessi, perché non dimentichiamo quando il Papa ci invita a, sempre nello stesso documento, se non sbaglio, quello dedicato alle corali, ci invitava a superare gli interessi, l'esibizionismo, le ambizioni, le gelosie, ma essere noi stessi quando facciamo musica, quando ascoltiamo musica, quando abbiamo questa relazione con i suoni. Nella semplicità, ripeto, il valore della semplicità è un valore, sono d'accordissimo con Marcello su questo, va bene interpretato perché altrimenti può sembrare una diminuzio, no, assolutamente no. E a spiegarcelo è stato l'esempio di Papa Francesco. Io adesso devo salutare i nostri ospiti, grazie a Marco Di Battista e a Marcello Filotei della redazione musicale. Rimanete sempre con noi. Ovviamente questo è uno spazio speciale dedicato completamente, ovviamente, a Papa Francesco che si è spento questa mattina. Seguiteci non solo via radio e in streaming, ma anche sul sito web vaticannews.va/it o la sigla della lingua che parlate o con la quale vi sentite più in confidenza, e poi ovviamente su tutte le nostre piattaforme social. Thank you. voglio essere vicino a voi sempre, mi è piaciuto venire in carcere per fare la lavanda dei piedi, quest'anno non posso ma sono vicino a voi. Sono state queste le parole di Papa Francesco giovedì scorso, abbracciando idealmente i detenuti del Regina Coeli in una delle, nell'ultima uscita dal Vaticano, e fa, perdonatemi, impressione dire che è stata l'ultima uscita dal Vaticano, quella di Papa Francesco, un rapporto con i detenuti che è sempre stato costante e affettuoso. Cerchiamo di ricordare questa vicinanza con Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale Cappellani delle ispettore generale Cappellani carceri italiani. Salve. Buongiorno a tutti. E innanzitutto un pensiero personale, come ha colto questa notizia, che cosa ha significato per voi Papa Francesco? Veramente stamattina un po' ha colto tutti la notizia di Papa Francesco, dopo averlo visto ieri in piazza con il saluto, con la benedizione Urbi et Orbi, e quindi possiamo dire che profeticamente ha voluto salutare nel giorno di Pasqua tutta la Chiesa e tutte le persone al vicare. Chiaramente per me, che sono ispettore generale dei cappellani, unitamente a tutti i cappellani, volontari, l'amministrazione penitenziaria, certamente Papa Francesco è una grande perdita, proprio perché attraverso la sua figura, le sue parole, i suoi gesti, il carcere è stato messo molto in evidenza nella società e davanti a tante comunità. Quindi Papa Francesco, basta vedere l'ultima visita che ha voluto fare a Regina Coeli, ecco, era quasi un dire: io vado via, vi saluto perché non potevo non venire da voi nel Giovedì Santo. Quindi io penso che Papa Francesco veramente profeticamente ha voluto salutare i detenuti di Regina Coeli, ma voleva salutare un po' tutti i detenuti del mondo che lui in tante parti del mondo ha visitato. Quello che colpisce del rapporto di Papa Francesco con i detenuti è l'affetto che loro hanno sempre dimostrato. Proprio giovedì scorso alla Regina Coeli ci sono stati, appunto, veniva chiamato come un amico, si rivolgevano a lui in dialetto. Ecco, chi era il Papa per i detenuti? Ma per i detenuti era un padre, un vero padre che abbracciava sempre i suoi figli, anche quei figli che sbagliavano. Quindi il Papa, che soprattutto rappresentava tutta la Chiesa, loro hanno visto veramente il gesto della misericordia di Dio, di un Dio che non giudica, di un Dio che veramente accoglie tutti, e attraverso la figura del Papa veramente hanno ripreso forza per dire: ecco, se la Chiesa è con noi, se la Chiesa non ci giudica, se la Chiesa ci tende la mano, allora dobbiamo mettercela anche noi tutta per riuscire a superare queste prove, soprattutto per il nostro recupero. Quindi Papa Francesco veramente ha parlato sempre ai detenuti, soprattutto chiedendo loro di rialzarsi, di non restare soprattutto schiacciati dal peso del loro male. E quindi in queste parole Papa Francesco veramente è stato molto vicino ai detenuti, perché lui non giudicava, non puntava il dito, non li vedeva come i marchiati della vita, ma li vedeva come persone fragili che hanno bisogno di essere aiutati, accolti e reinserite nella società. Don Raffaele, e buongiorno Marco Guerra. Buongiorno. Buongiorno. Nella bolla di indizione del Giubileo, il Pontefice ha chiesto ai governi di prevedere che durante l'anno santo ci siano forme di amnistia o condoni di pena per i detenuti. Quindi il Papa non ha parlato solo al cuore dei carcerati, alla redenzione, al loro riscatto, ma ha parlato anche ai governanti. Ecco, questa pastorale carceraria è stato un punto fondamentale del magistero di Francesco. Come è stata letta da chi vive le carceri ogni giorno, anche l'apertura della Porta Santa in un carcere? Che segnali sono stati anche le richieste ai governi? Ma comunque certamente il Papa non si arrende, non si è mai arreso nel chiedere soprattutto ai governi anche un'attenzione particolare ai detenuti, soprattutto anche in quest'anno santo. Chiaramente il Papa semina, il Papa, possiamo dire, provoca le coscienze, poi dall'altro lato ci deve essere la risposta umana e una risposta di grande solidarietà. Il Papa lancia l'appello e poi lascia grande libertà alle persone di agire, però nel frattempo questa sua parola forte, questo suo messaggio indirizzato anche ai governi affinché ci sia una maggiore attenzione verso i detenuti, ecco, certamente scava le coscienze. E poi la porta santa che lui ha voluto aprire a Rebibbia è stato veramente un gesto profetico. Perché? Perché la prima volta che una porta si apre anche in un carcere, e il Papa l'ha chiamato un'altra basilica dove lui ha aperto la porta santa. E proprio in quel luogo lui ha parlato di speranza, ha parlato di attenzione ai reclusi, di non abbandonarli, e quindi tutto questo, possiamo dire, fa parte un po' della pastorale della Chiesa. Quindi Papa Francesco, attraverso i suoi gesti, e soprattutto basta vedere come il Giovedì Santo, a lui molto caro, andava in tutte le carceri, è andato in questi anni del suo pontificato, non ha fatto mai mancare un Giovedì Santo dove lui è andato dai detenuti a lavare i piedi con umiltà, soprattutto facendoci capire che la Chiesa, come diceva Don Tonino Bello, è la Chiesa del grembiule, è la Chiesa che deve servire. Ecco, per i cappellani delle carceri italiane quindi è stato un incoraggiamento questo magistero. Ricordiamo le grandissime difficoltà che ci sono nelle carceri italiane, il sovraffollamento, i piani di recupero che non sempre vengono implementati. Questo magistero di Francesco cosa ha significato in questo quadro di difficoltà? Ma certamente Papa Francesco non poteva risolvere tante questioni, tante situazioni, proprio perché non era il suo compito. Però il suo compito era quello di infondere speranza, soprattutto anche quando in tutti gli istituti tanti suicidi ci sono stati. Soprattutto in questi momenti Papa Francesco, con la sua parola, con il suo magistero, incoraggiava anche noi cappellani. Quante volte noi lo abbiamo incontrato nei diversi momenti in Vaticano, nelle nostre carceri, agli incontri con i detenuti. Noi siamo stati sempre ben accolta da Papa Francesco, perché sapeva lui bene come il nostro ministero era un ministero accanto agli ultimi, ma soprattutto un ministero di misericordia. Infatti lui tante volte ci chiama e ci ha chiamato sempre ambasciatori di misericordia. Quindi noi cappellani veramente siamo stati sorretti dalla parola e soprattutto dall'incoraggiamento del Papa, perché anche noi, per noi che entriamo nelle carceri, molte volte la nostra missione non è molto facile, è difficile per tanti motivi, o per le resistenze o per la situazione che lei prima accennava del sovraffollamento, ecco, soprattutto tante percorsi di recupero vediamo che non ci sono, e allora noi ci siamo sentiti incoraggiati dalla pastorale del Papa, dalle parole del Papa, dalla sua vicinanza, dalla sua visita e soprattutto dai suoi messaggi continui che ha mandato a noi, ma soprattutto ai reclusi. Donna Raffaele, tutti abbiamo un ricordo che può essere privato o pubblico di Papa Francesco, un ricordo personale. Ecco, qual è il suo? Ma io l'ho incontrato tante volte, Papa Francesco, quindi porto dentro di me un'immagine di un padre affettuoso, un padre che ci accoglie, e anche a me, proprio all'inizio quando l'ho incontrato, mi ha incoraggiato in questo mio servizio nazionale, ha detto lavora, cerca di stare accanto a tutti perché hanno bisogno dell'aiuto e dell'incoraggiamento, e quindi anch'io sono stato incoraggiato un po' in questo mio servizio accanto ai cappellani, accanto ai detenuti, accanto alla polizia penitenziaria, accanto a tutti gli operatori che vivono all'interno dei nostri istituti penitenziari. Grazie allora Don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale Cappellani Carceri Italiane. Grazie a lei, grazie. Sono tanti anche i messaggi di cordoglio che arrivano dai nostri ascoltatori al 335-12-437-22, ne leggiamo qualcuno come esemplificazione di tanti di quelli che stanno arrivando. Ci scrive Maurizio da Chieti, vi sto ascoltando mentre svolgo il mio lavoro da fiduciario, questa morte mi coglie molto nell'animo, nello spirito di cristiano, un papa come dicono tutti degli ultimi, degli emarginati, dei più bisognosi, degli indifesi. Un saluto a tutti voi da Maurizio. Un altro ascoltatore che non si firma ma il cui numero è 30 finale scrive: da oggi siamo tutti ancora più soli, non ti dimenticheremo mai Papa Francesco. Vi invitiamo, se qualora lo vogliate, a scrivere, ripeto, al 335 12 437 22. oltre all'affetto dei fedeli ci sono anche l'affetto delle istituzioni, dei grandi del mondo, verrebbe da dire. E ci aggiorna un po' per sapere un po' come il mondo sta reagendo a questa notizia qui in studio, Francesco De Remigis. Sì, buongiorno, buongiorno. Una notizia che ha scosso inevitabilmente anche i leader che hanno spesso oggi stravolto questa agenda politica. Ognuno nel mondo ne aveva una, ma la notizia inevitabilmente ha impattato anche sulle agende e poi anche su quelli che sono, prima di arrivare alle reazioni vere e proprie, con le frasi di cordoglio, anche le immagini. Partiamo da luoghi geograficamente più vicini in Italia, perché da Palazzo Chigi alla Camera, al Senato, fino al Quirinale, le istituzioni italiane espongono bandiere a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. E tra i primi messaggi di cordoglio ad arrivare c'è stato proprio quello del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, che parla di un grande dolore personale. Avverto il grave vuoto che si crea con il venir meno di un punto di riferimento, dice Mattarella, un punto che per il Presidente della Repubblica Italiana ha sempre rappresentato un insegnamento alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. E la riconoscenza, aggiunge il Presidente Mattarella nei suoi confronti, va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi. Naturalmente, oltre al Presidente della Repubblica Italiana, c'è anche un messaggio molto forte della Premier Giorgia Meloni, che ricorda un rapporto molto più assiduo di quanto non si vedesse all'esterno, fa sapere Giorgia Meloni, che ricorda anche le meditazioni della Via Crucis, che hanno ricordato a lei e ai fedeli la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell'uomo è inconciliabile. E ha ricordato tra gli insegnamenti l'invito a percorrere una strada che non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce, e cammineremo in questa direzione, dice Giorgia Meloni. Ma condoglianze e messaggi di affetto giungono, lo dicevi, Michele, da tutto il mondo e anche da paesi in conflitto come sono la Russia e l'Ucraina, perché il presidente Putin, attraverso l'ufficio stampa del Cremlino, ha tenuto a ricordare una persona eccezionale, Papa Francesco, ricordando che si è attivamente promosso per lo sviluppo del dialogo anche tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana. Parla di una grande autorità internazionale, di un fedele servitore dell'insegnamento cristiano, uno statista. E anche il presidente ucraino Zelensky ricorda a tutti le preghiere per l'Ucraina che Papa Francesco non ha mai smesso di rivolgere, invita dunque tutti a piangere assieme ai cattolici, augurando memoria eterna. E allora grazie a Francesco De Remigis, continueremo ad aggiornarvi su come il mondo sta reagendo a questa notizia. Lo ricordiamo, Papa Francesco è tornato alla casa del padre questa mattina. Ora linea alla regia per un momento di riflessione musicale. Buon pomeriggio da Marco Guerra. In questa giornata di lutto riprendiamo la diretta qui su Radio Vaticana con i nostri ospiti per approfondire quelle che sono state le caratteristiche principali del Magistero di Papa Francesco lungo questi 12 anni. Abbiamo con noi adesso come ospite Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita Italiano, proprio per parlare della società dello scarto, per parlare della tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, perché lo sguardo di Papa Francesco andava sugli ultimi e sulla tutela di ogni vita che va appunto dal concepimento e nell'arco di tutta la vita, quindi dai migranti nelle loro traversate in mare fino al bambino nel grembo materno e anche gli anziani, grande vicinanza agli anziani, ai malati, ai disabili. Quella società che oggi nella visione produttiva, utilitaristica, non è produttiva. Quindi Francesco ha sempre posto l'accento sulla ricchezza e sul valore intrinseco di ogni vita. Vero Marina Casini? Assolutamente vero, è verissimo, e questo è dimostrato anche dalle parole del suo discorso di ieri, un discorso meraviglioso, quasi un testamento e lascito spirituale che ha voluto lasciare a tutta la Chiesa. Tra l'altro in un momento speciale, perché siamo ancora in tempo di Pasqua e ci attende la Domenica in Albis, no? La Domenica della Misericordia, quindi veramente la sua nascita al cielo in questo periodo è molto molto eloquente. Dicevo, ieri anche, quindi questo messaggio, lui è tornato proprio su questo che è uno dei suoi filoni principali, uno dei filoni principali di tutto il suo magistero, quando ha proprio detto: la Pasqua è la festa della vita, Dio ci ha creati per la vita e vuole che l'umanità risorga. Ai suoi occhi la vita è preziosa, quella del bambino nel grembo di sua madre come quella dell'anziano o del malato, considerati in un numero di paesi come persone da scartare. Ecco, la stessa espressione cultura dello scarto, mentalità dello scarto, viene proprio da Papa Francesco, che col suo linguaggio schietto, chiaro, incisivo, ha voluto proprio rendere l'idea di una società che non è inclusiva e accogliente, ma che espelle, rifiuta alcune categorie di persone che proprio sono coloro che sono i più vulnerabili, i più fragili, coloro che stanno nelle periferie, di cui anche il suo invito ad andare in uscita, ad andare incontro a tutti. E aveva capito una cosa, Francesco, molto molto bene, e spero che su questo si rifletta molto. Cioè, lui ha capito che se vogliamo conoscere fino in fondo il valore dell'esistenza umana di ogni uomo, il valore proprio concreto, dobbiamo metterci in ginocchio di fronte al più povero dei poveri, che è il bambino concepito nel grembo della mamma. E se vogliamo realizzare un'autentica solidarietà umana, dobbiamo partire proprio da quella primordiale solidarietà che lega il bambino nel grembo della mamma alla sua mamma e viceversa. Ecco. Questo è chiaro. Sì. Papa Francesco, come abbiamo sottolineato prima, ha fatto un grande pressione sulla dottrina sociale, sui temi sociali, sì. Ma sono fortissime le sue parole sul tema della vita. Ricordiamo che chi proponeva l'interruzione di gravidanza a ragazze con maternità difficili è stato definito addirittura un sicario. Fortissimi i suoi richiami alla tutela della maternità, fortissimi i suoi richiami contro l'eutanasia, lo scarto, chi non può più essere autonomo, quindi anche quella relazione, quell'interdipendenza che si crea con il più debole. Lui ha sempre messo l'accento sulla cura per il più debole, ecco, che va accompagnato. Quindi ecco, il Movimento per la Vita italiano, che nasce dopo le leggi degli anni 70 sull'interruzione di gravidanza, ecco, come è stato ispirato da questo magistero? Voi vi siete incontrati diverse volte con Papa Francesco? Sì, ci siamo incontrati diverse volte e abbiamo nel cuore proprio quello che ci ha detto. L'ultima volta è stata anche recente, perché è stato l'8 marzo del 2025, in occasione proprio del giubileo del Movimento per la Vita, del Popolo della Vita. Ha fatto un discorso meraviglioso, mirabile, che alla luce proprio della sua nascita al cielo andrebbe ripreso, riletto e rimeditato. Lui, tra le tante cose belle che ci ha detto, ha ribadito che c'è ancora oggi più che mai bisogno di persone di ogni età che si spendano concretamente al servizio della vita umana, soprattutto quando è più fragile e vulnerabile, perché essa è sacra, creata da Dio per un destino grande e bello, e perché una società giusta non si costruisce eliminando i nascituri indesiderati, gli anziani non più autonomi o i malati inguaribili. Ecco, questo per dire che cosa? Per dire che questi temi sono stati avvertiti da Papa Francesco non soltanto come perché sarebbe riduttivo, e Papa Francesco questo l'aveva capito, non soltanto come tematiche di carattere morale e etico, ma sono questioni sociali. La questione antropologica è un'eminente questione sociale, ecco perché Papa Francesco parlava dell'aborto, dell'eutanasia, del suicidio assistito, della tutela dei bambini non nati, della misericordia verso le loro madri, quando parlava degli emigranti, dei profughi, delle vittime delle guerre e delle vittime di tutte le possibili, purtroppo, drammatiche violenze che ci sono, perché tutto si tiene, si tratta sempre di questioni sociali, non esistono questioni che riguardano l'uomo che siano soltanto relegabili sul piano della coscienza, sul piano dell'etica, ma sono sempre comunque questioni sociali, questioni che toccano e riguardano anche il bene comune. Quindi, no? La convivenza civile prima ancora di questioni che toccano, diciamo, appunto, come dicevo, la dimensione religiosa. Anzi, lui più volte ha ribadito che non si tratta di questioni religiose, lo ha ribadito con forza, come sapeva fare lui, no? Ma sono questioni che riguardano la scienza, il diritto, la politica, la ragione. E in questo, devo dire, ha aperto una grande strada che non dobbiamo chiudere, ma dobbiamo ancora, come dire, frequentare e invitare tutti a comprendere questo messaggio, che è di una forza e di una potenza straordinarie, perché tra i poveri ci sono anche appunto gli scartati della terra, e tra gli scartati ci sono i bambini non nati, come gli anziani, come i disabili, come i morenti, sono anche quelle delle periferie, no? Che dobbiamo assolutamente abitare per accogliere, certamente, per consolare, per garantire anche su quel piano dei diritti, il diritto alla vita, il diritto alla cura. E quindi devo dire che Papa Francesco ci ha consegnato un grande compito, e tra l'altro proprio il Movimento per la Vita ha raccolto tutti i suoi testi sulla vita nascente, proprio in un libro veramente intitolato Il Magistero di Papa Francesco sulla vita nascente, e si vede chiarissimo, come dicevo, come tutto si collega. Ecco, non esiste un amore per la vita che sia frammentato, frammentario, a intermittenza, o la vita si ama tutta, o altrimenti l'amore per la vita sarà debole e sarà, come dire, anche incoerente e pieno di contraddizioni. Ecco, se noi amiamo la vita dobbiamo veramente guardarla tutta, dal concepimento alla morte naturale, senza escludere nessuna fase, nessun momento, perché ogni evento è prezioso. Dottoressa Casini, lei ha ricordato le persone più fragili.